Si inizia? Vai! Buonasera a tutti, bentrovati a questa nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Come sempre, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo nel piano centro storico di Montevarchi, per il cui ringrazio Stefano Neri che ci concede gli spazi, ringraziamo il nostro regista di stasera che è Luchino Visconti e ringraziando il nostro ospite di stasera che stasera è il mio ospite in quanto il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax, purtroppo questa sera è assente. Diamo il benvenuto a Mauro Listanti. Buonasera. Buonasera Mauro. Bene, iniziamo questa nostra cavalcata anche stasera, come ho appena detto, alla ricerca della montevarchinità, partendo dall'inizio, dai suoi esordi. I suoi esordi sono in Umbria, perché lei è ternano di origine, e ci ha raccontato in sede di presentazione della puntata di aver militato con l'Orvietana prima di essere preso a giocare al Montevarchi, dove ha fatto due stagioni, 68-69 e 69-70, culminata con la vittoria del campionato di quarta serie, dell'allora quarta serie, per la promozione in Serie C. Quella era una bella squadra che comprendeva tanti giocatori molto importanti e anche lei, comunque Mauro, era uno di questi, ha rappresentato una pietra molto importante nella sua pur breve apparizione a Montevarchi di soli 2 anni, perché poi ha spiccato il volo. Ci racconti un po' questa storia che da Montevarchi l'ha lanciata nel palcoscenico, nel gotha del calcio italiano, vale a dire in Serie A. Sì, hai detto bene, per me Montevarchi è stato l'inizio, diciamo, di un, anche se pur breve, neanche molto luminoso, ma una carriera da calcistica. Dal Montevarchi andai al Verona in Serie A, logicamente venendo dalla quarta serie avevo davanti gente già strutturata con anni di Serie A alle spalle, non era così facile, e mi mandò in prestito al Cesena. Al Cesena ho fatto 2 anni, di cui il secondo arrivai secondo alla classifica dei cannonieri, l'anno in cui vinse Chinaglia, e forse è stato uno degli anni migliori della mia carriera e sicuramente una città che ricordo molto volentieri insieme a Montevarchi. Dal Cesena poi mi comprò il Genova, dal Genova al Taranto, Taranto-Piacenza, sempre Serie B, comunque ho fatto 10-11 campionati in Serie B. E ci hai appena detto un nome che nel panorama del calcio italiano è un nome molto importante, vale a dire Giorgio Chinaglia, fu pure inserito in una famosissima canzone per bambini, allora Chinaglia che faceva i gol nella canzone, in questo momento mi sfugge l'autore di quella canzone, però mi ricordo che c'è una canzone che parla di Chinaglia. E una domanda che facciamo più o meno a tutti gli ospiti che vengono a Montevarchi da fuori, che non sono montevarchini di origine. Com'è stato il suo approccio con la nostra cittadina, con Montevarchi, quindi a fine anni 60, lei che veniva dall'Umbria, una regione vicina, una regione confinante, ma comunque un mondo nuovo per lei. Com'era Montevarchi in quei tempi? Ma le dirò, mi ricordo dell'esordio, della prima partita in casa, fu disastroso. Logicamente non mi demoralizzai, pure perché incoraggiato dagli sportivi e soprattutto dall'allenatore Balleri che credeva molto in me. È stato lui che mi ha voluto acquistare a tutti i costi all'anno precedente dall'Orvietana, che faceva lo stesso campionato del Montevarchi. Niente, poi è stata tutta un'ascesa fra l'entusiasmo, fra la cordialità che sentivo attorno a me. Fra l'altro, un dato che non sfugge è quello che ho trovato la fidanzata che poi è diventata mia moglie. Sono stato in giro per 12-13 anni, ma poi mi sono sposato a Montevarchi e tuttora vivo e lavoro a Montevarchi. Molto probabilmente mi ci sono trovato bene. E come infatti è accaduto ad altri calciatori che sono già stati ospiti della nostra trasmissione, venendo da fuori, poi il caso ha voluto che la loro vita fosse legata ad un filo stretto e diretto proprio con la nostra cittadina. ha parlato di cordialità, ha parlato di sensazioni molto positive riscontrate nei Montevarchini di allora. E questo è una cosa che ci torna molto spesso alla memoria delle persone che vengono intervistate nella nostra trasmissione, vale a dire proprio il grande supporto, il grande calore che si avverte giocando a Montevarchi, ed era così anche negli anni 60. Ma direi forse di più. Io sono stato allo stadio, vado allo stadio, e c'è ancora di base quello di cui parlavo, però tempi indietro era ancora più forte, era molto più sentito, li sentivi. Non sapete quanto è importante per un ragazzo di 20 anni, 21, 22, io venivo dall'Umbria, diciamo confinanti, la mentalità non è che sia così diversa, ma che magari per la prima volta si allontana da casa e sente questo calore. Io non riuscivo a andare a mangiare al ristorante tutte le sere perché ero sempre invitato da qualcuno, e questo fa enormemente piacere. Ebbene, abbiamo detto che appunto dopo il vittorioso campionato del 69-70 con la promozione in Serie C di allora del Montevarchi, lei fu acquistato dal Verona. Di conseguenza si trovò catapultato in due anni dai dilettanti alla Serie A. E una domanda molto importante per noi da questo punto di vista, per cercare di capire cosa c'è di differente. Cosa cambia appunto fra giocare nei dilettanti o in Serie C e poi ritrovarsi in Serie A, quindi giocare con calciatori che hanno probabilmente un altro approccio mentale, un altro modo di affrontare la vita quotidiana del calciatore? Ma le differenze sono sostanzialmente due. Uno dal lato tecnico, perché trovi compagni e avversari tecnicamente e fisicamente già molto più preparati, anche fisicamente. Poi c'è la sudditanza psicologica della persona che avevi visto in televisione fino ad ora, e invece magari ci giochi insieme o contro, e psicologicamente ti può creare qualche problema, per cui gli aspetti sono non diversi, due o tre, quello tecnico e soprattutto quello mentale, che inizialmente è forse più sentito dell'altro. Fino alla quarta serie, diciamo, come era il Montevarchi di quei tempi, si chiamava la quarta serie C o serie C2, logicamente ci voleva una base tecnica e anche lì fisica, ma non di quel livello, e era ancora molto istinto. Lì l'istinto conta in certi ruoli, ma conta molto la logica calcistica e l'insieme di squadra. I compiti sono molto più marcati. Te hai un compito, io ne ho un altro. 10 più 10 fa 100. Anche se te fai 15, ma io non faccio 5, faccio 4, non arriviamo a 20. Per cui il tuo rendimento è supportato dal mio, come il tuo, come te supporti me. C'è una logica di comunità. Agganciandomi proprio a queste parole, le faccio una domanda che mi incuriosisce molto, vale a dire, quando lei arrivò nella Serie A di allora e poi anche nella Serie B, perché comunque la seconda serie nazionale non è mica roba da ridere, per superare le difficoltà mentali che i calciatori potevano incontrare nel rapportarsi appunto in certi campionati, c'era qualcuno, c'era qualche specialista che vi aiutava, oppure era tutta farina del vostro sacco? No, non c'era la persona che affiancava, che mi affiancava o affiancava altri ragazzi come me. Però convivendo nello spogliatoio ti accorgi che tutto sono uguali a te. C'è da imparare, c'è da smussare, c'è da convivere. Questo devi apprenderlo in base alla tua, diciamo, capacità mentale. Ecco, quando ancora i mental coach, che oggi vanno molto di moda, non esistevano, quella figura non c'era. Un'altra persona che ci è stata molte volte ricordata dai nostri ospiti, appunto anche da una signora che è venuta ospite qua e che ci ha raccontato che proprio in quegli anni era usuale per lei e per la sua famiglia ospitare il Lupo Balleri in casa per le cene, per i pranzi, perché era diventato uno di famiglia, e così come ci ha raccontato succedeva anche a lei. ma il Lupo Balleri allenatore, quindi il Lupo Balleri che la allenava, che la guidava in qualche modo, guidava lei come tutti gli altri suoi compagni di squadra, che persona era? Che tipo di carisma aveva e cosa riusciva a tramandarvi? Era una persona schietta, non loquace, però le parole erano dette al momento giusto e al punto giusto. Era un padre quando serviva, era anche tosto quando ce n'era bisogno. Per me era una persona, è stata una persona, è quello che mi ha voluto comprare a tutti i costi dall'Orvietana, che faceva lo stesso campionato del Montevarchi, e mi ha voluto a tutti i costi acquistare. Mi ha sempre consigliato, mi ha aiutato a fare gol, perché lui ancora giocava il primo anno soprattutto quando io esordì a Montevarchi, e mi ricordo che quando si apprestava a calciare io sapevo dove me la metteva. Potevo partire in anticipo, arrivava lì il pallone. Nel finale degli anni 60 lei a Montevarchi c'era come calciatore, poi ha girato per circa 10 anni l'Italia, in lungo e in largo questo sì, e poi è ritornato a Montevarchi. Come ha ritrovato Montevarchi 10 anni dopo, al di là del fatto che poi ci si è sposato e ci ha costruito una famiglia, però i montevarchini la riconoscevano, la fermavano per la strada, erano ancora legati all'ex calciatore, oppure erano magari una situazione un pochino più fredda, e comunque la città in generale era cambiata o stava cambiando? Non ho trovato molta differenza, lei non ci crederà. Mi accorgo che mi vogliono bene, mi volevano bene, insomma, adesso logicamente sono passati troppi anni, per cui i ragazzi che vanno allo stadio adesso non è che mi conoscono, però per 10-15 anni mi riconoscevano, mi chiamavano, mi salutavano, mi invitavano a ricordare di quello che si era fatto, dei gol magari che avevo fatto a Montevarchi, e logicamente mi faceva piacere. E una cosa che non succede proprio a tutti i calciatori, magari a tutti i calciatori succede di andare in edicola a comprare un album, i pacchettini e attaccare le figurine sullo stesso, ma lei che a un certo punto della sua carriera ci si è ritrovato una foto e una figurina, che effetto le ha fatto questo? E magari, non so, si sarà visto nella figurina? Sì, mi sono visto e ce l'ho, la conservo, perché me l'ha portata qualcuno, adesso non mi ricordo, e fa un certo effetto, perché collezionavo le figurine, ritrovarsi nelle stesse, insomma, un po' ti monta la testa. Soprattutto considerando il fatto che erano anni in cui, come già anche altri ospiti ci hanno raccontato, non c'erano per i ragazzi tutte le distrazioni o tutte le cose da poter fare che ci sono oggi, ma c'era molto di meno, e probabilmente per un bambino collezionare le figurine era il massimo, era proprio una gioia, io mi immagino. Sì, i giochi non erano quelli attuali, come si sapete benissimo, le figliole e i figli li ho anch'io, il nipotino che gioca continuamente col telefono, le figurine per lui le vede su apparire e sparire, però era una collezione che si faceva, si scambiavano, ti do un Rivera per 10 Mazzola, ecco, era questo il mercato di allora. E agganciandomi proprio a questo aneddoto simpatico sulle figurine del mercato, una domanda che mi viene di porle è questa: lei si trasferì dall'Orvietana al Montevarchi, poi dal Montevarchi al Verona, al Cesena e via via e via per tutta la sua carriera, ma a quei tempi questi spostamenti erano pilotati, diciamo, da un procuratore, seguiti da un qualcuno, oppure venivano e poi ogni calciatore faceva per sé? Io ho fatto sempre per conto mio, non c'era ancora neanche l'associazione calciatori. È venuta negli ultimi 2 anni Campana, che con l'assistenza ai calciatori, per cui tutti i contratti li ho fatti da solo. Mi ricordo la prima volta, come si diceva, dal Montevarchi andò al Verona, il presidente era Garonzi, che fu uno dei primi sequestrati in Italia, parlo anche di cifre, tanto ormai sono cose passate. Mi dava 500.000 lire al mese più vitto e alloggio. Io gli dissi: mi venga incontro presidente, sono da solo, devo vivere qui. Sì, siccome aveva la concessionaria Fiat, prendo un autotreno e ti vengo incontro, mi disse. Questa era la risposta del presidente. E un'altra domanda che mi viene in mente è questa: il suo spostamento dall'Umbria a Montevarchi e il suo approccio a Montevarchi. Ma lo spostamento da Montevarchi a Verona, quindi di nuovo in una grande città, allora comunque, che differenze alla fine c'erano fra essere un calciatore di una squadra di città rispetto ad un calciatore di una squadra di una cittadina che comunque a fine anni 60 era aperta campagna? C'è meno calore. Qui uscivi di casa o dall'albergo, quello che sia, dalla pensione, e trovavi gli amici, prendevi il caffè, erano sempre gli stessi, non c'era differenza, stavi in casa, ecco. Lì fuori dallo stadio non ti riconoscevano, difficilmente. Soprattutto Verona, posti del sud come Taranto negli ultimi anni ti riconoscevano. Il giocatore era visto ancora come un idolo, diciamo. Verona era una città molto signorile, ecco, qui si distingue fra città e città, non categorie magari, però logicamente non è così caloroso come nelle grosse città. Montevarchi sarà da esempio, io ho provato solo Montevarchi e Orbiero, Montevarchi è molto più vicina ai giocatori, ma è nel senso amichevole, non di idolo, più amichevole. C'era dunque un approccio anche nei confronti dei calciatori più umano, nel senso i montevarchini aprivano un po', diciamo, il loro cuore ai calciatori che vestivano i colori rosso-blu. È vero, è verissimo, è vero e lo confermo e lo ricordo volentieri, se no non mi sarei stabilito qui. E Mauro, ti do del tu, via, ormai abbiamo rotto il ghiaccio. Nella sua lunga e onorata carriera avrà visto molte cose e le saranno passate davanti molti calciatori in molte situazioni, ma era un calcio diverso, non c'era il mental coach, non c'erano i procuratori, non c'era l'associazione calciatori. Quello che a noi piace un po' dire scherzando era un altro mondo. Ma se il Mauro Listanti fosse oggi un 25enne che gioca al calcio, cosa troverebbe di diverso nel calcio di oggi rispetto al calcio di allora? Il calcio di allora era un calcio strutturato con le due ali, come avevamo noi qui a Montevarchi, Lucchesini e Zavagli, con la mezza punta, i difensori in marcatura uomo. Per certi aspetti mi sarei trovato meglio, perché io fisicamente non è che sia un gigante. Per cui la marcatura uomo la soffrivo logicamente, perché essendo bravino di testa mi veniva sempre a prendere il difensore più arcigno, più forte di testa. Però paragonandosi al gioco attuale, in cui è un gioco totale dove anche la punta deve tornare ogni tanto, sarei stato un po' danneggiato, perché io ero prettamente d'area di rigore. Aspettavo i cross delle ali oppure della mezza punta che mi metteva la palla filtrante. Sicuramente in quel momento ero a mio agio. Il contro gliel'ho detto, perché c'era la marcatura uomo, però avevo anche il pro, perché non dovevo tornare molto. Anche l'allenatore Balleri non è che mi faceva ritornare, anche nella situazione di calcio d'angolo a sfavore non venivo a difendere. Naturalmente mi sarei abituato, logicamente uno, però non avrei avuto tutte quelle piccole possibilità che avevo allora con le ali e la mezza punta che giocavano per il centravanti. Quindi proprio il modo di giocare, poi alla fine è dagli anni 90 con l'avvento del calcio sacchiano, il calcio è piano piano si è trasformato in uno sport molto più fisico e forse un po' meno tecnico. Sì, è più fisico, come dicevo adesso, prima, perché le preparazioni sono esasperate, sono portate al limite, però la tecnica ancora conta, pure perché la zona, prima con la marcatura uomo, il pallone ti arrivavi in due, te il difensore sul pallone, anche se non avevi il controllo molto pulito, essendo pressato eri giustificato. Con la zona il pallone lo ricevi a volte molto più libero, ma devi saperlo controllare in mezzo metro e devi essere pronto molto mentalmente, sapere già che fine farà il pallone che hai tra i piedi. quando ha appeso le famose scarpette al chiodo, quindi lasciato il campo, lasciato il calcio giocato, ha mai pensato a continuare nel mondo del calcio in un ruolo qualsiasi, potesse essere l'allenatore, l'osservatore o l'allenatore magari di squadre giovanili, oppure no? E se ci ha pensato, lo ha fatto o non lo ha fatto? Sì, in effetti l'ho fatto qualcosa, perché io appena ho smesso di giocare, non avevo iniziato ancora l'attività che faccio tuttora, fui chiamato al Bibbiena, dove io ero stato in ritiro con il Verona. E lì ho fatto il direttore sportivo, si è vinto due campionati, poi ho fatto il direttore generale a Montevarchi in C1, quando c'era l'allenatore Ferrari, non so se vi ricordate, la Vezzini, quelli li ho portati io, si è fatto la C1 e facevo il direttore generale. E la Vezzini l'anno di Pesaro, del famoso 3-3, era il direttore generale, ecco. Montevarchi faceva acquisto dei giocatori, vendita, poi l'impegno dell'attività che ho iniziato non mi dava più spazio per fare certe cose e ho dovuto smettere. E che differenza c'è per una persona che ha giocato al calcio vero, perché noi a volte si dice il calcio meno vero, il calcio più vero, il calcio di Serie A, Serie B, insomma queste categorie qua, che differenza c'è scendere in campo? Alcuni calciatori che sono già venuti in trasmissione ci hanno raccontato l'odore dell'erba, se il campo è bagnato, se il campo è asciutto. Quello le mancava oppure si trovava bene in questo suo nuovo ruolo? No, mi mancava, ma me ne ero fatto una ragione, non è che si può giocare interno, sapevo come finiva. Fare il dirigente mi è piaciuto, perché poi ho fatto socio sostenitore del Montevarchi, non è che ero stipendiato, pagavo per fare questo lavoro. Però posso dire una cosa, che allora lo sapevo fare, attualmente avrei dei dubbi, non sarei più così sicuro di saper fare, perché il metro di individuazione delle qualità per quello che serve per il gioco attuale non è più quello che io avevo in mente o che avevo vissuto. In quel momento mi sentivo sicuro per l'applicazione del gioco che attualmente, in quel momento si vive, in cui ero cresciuto. Attualmente in questo frangente sarei in difficoltà, non mi sentirei più sicuro. E tanto è cambiato il calcio e probabilmente ci sarà bisogno di studiare, ci sarà bisogno di fare un po' di cose per restare al passo coi tempi. E sempre riagganciandomi a cose dette, ormai siamo avanti con le puntate, quindi di ospiti ne sono già venuti abbastanza e di conseguenza mi vengono in mente i vari collegamenti. Ci veniva raccontato da un ospite in precedenza che due figure fondamentali a Montevarchi per fare calcio, vale a dire Lezio Losi e Vasco Farolfi, erano molto meticolosi, erano molto passionari, erano dei passionisti proprio per il calcio e per il Montevarchi. E te che sei stato direttore generale nell'anno di Lavezzini ci hai avuto a che fare. Un piccolo ricordo di queste due figure che sono molto importanti ovviamente a Montevarchi. Quella più clamorosa è stata quando sono andato a Cernobbio, come tutti gli anni, per l'acquisto e vendita dei giocatori. Ritornando la notte tardi ci si fermò in un autogrill a prendere qualcosa e si discuteva su chi si era comprato, no delle qualità di chi si era, ma chi si è comprato. E la battuta del Lezio Losi gli disse: e domani si leggerà sul giornale. Era questa la filosofia dei nostri presidenti, anche loro gioviali, con pochi convenevoli, ecco, amiconi anche loro. Ci hanno raccontato appunto in precedenza che i due si dividevano un po' il compito la domenica, vale a dire Lezio Losi era, proprio per effetto della sua grande passione e della sua forse più tranquillità, sempre in panchina, mentre Vasco Farolfi sedeva sempre in tribuna. E lei, da direttore generale, di partite accanto a Vasco Farolfi in tribuna ne avrà viste. Ci racconti il Vasco Farolfi della tribuna, come la viveva la partita? Ma la viveva stando seduto, ma muovendosi continuamente, sia con le gambe che con le braccia. Per lui seguiva la partita stizzando dal ginocchio in giù per non farsi vedere in un modo clamoroso, ma era sempre in movimento. Giocava anche lui la partita. Era come se giocasse la partita. Ci ci torna la conferma della grande passione di queste due persone che tanto bene sono ricordate a Montevarchi. E un'altra domanda che facciamo classicamente a tutti i nostri ospiti che sono stati in campo sia nelle file del Montevarchi che anche poi in altre squadre, come nel suo caso: qual è il gol, lei che faceva il centravanti, qual è il gol più significativo che si ricorda di aver segnato sia con la maglia del Montevarchi che in generale con altre maglie? Ce n'è uno particolarmente in mente che lo feci, mi sembra, con il Pontedera, ma potrei anche confondermi con l'avversario, che c'è stato un cross di Lucchesini che solitamente era abbastanza altezza media, invece fu cadente quasi al suolo. Entrai al volo e feci un gol clamoroso, perché anticipando il difensore, che neanche io mi aspettavo come tempestività e velocità un'esecuzione del genere. Un altro invece che in Serie B mi ricordo fu a Cesena, quando giocai contro il Novara. Marcava un certo Udovicic, sarà stato alto 2 metri. Si vinse 3-0 e feci 3 gol. Clamoroso. Alcuni calciatori ci hanno un po' spiegato che differenza passa fra l'allenamento e la partita. Per dire, la persona che ce l'ha raccontato ci diceva che quando si allenava non era proprio concentratissimo di testa, cioè aveva anche altri pensieri, ma nel momento in cui si scendeva in campo la domenica e l'arbitro fischiava il calcio d'inizio, spengeva la testa e per 90 minuti giocava un'altra persona. Poi, quando l'arbitro dava il terzo fischio, riaccendeva la testa e lui tornava il calciatore, la persona di sempre. Era così anche per lei, oppure era più magari presente? No, per me non era proprio così. Era non dico lo stesso, perché logicamente la partita, la tensione della partita, qualcosa in più ti mette addosso. Però ho notato che i miei compagni di allora, parlando proprio in zona gol, mi dicevano: ma come fai? Io quando arrivo lì davanti al portiere, se ci arrivo, non so prendere decisioni, mi tremano quasi le gambe. Io mi rendevo conto che per me era l'opposto. Quando ero davanti al portiere, non dico che era quasi una soddisfazione, ma individuavo e sapevo cosa fare e eseguivo. Per cui non so se avevo una calma diversa, una pulsazione diversa, una testa diversa, non lo so, questo però ho notato che, appunto, dicendomi, paragonandomi ai miei compagni, mi dicevano che per loro diventava un problema, perché quando arrivavano lì era l'emozione totale, per me era il momento più tranquillo. Era molto più difficile arrivarci che poi invece fare gol una volta arrivato là. Perfetto, quando ero lì davanti era una cosa matematica. E forse non è proprio un caso se poi ha calcato anche campi delle categorie maggiori in Italia. E qual è il compagno di squadra che più si ricorda da un punto di vista, non lo so, di amicizia o di capacità tecnica o di aiuto che le può aver dato per migliorare e per crescere nei suoi 2 anni a Montevarchi? Diciamo, come si dice sempre, tutti, ma non è proprio così, perché qualcuno più e qualcuno meno. Però le 2 ali che erano a Montevarchi, Lucchesini e Zavagli, hanno fatto la mia fortuna. Una volta che poi tornò a Montevarchi, si ritrovò con alcuni suoi ex compagni di squadra che ancora erano a Montevarchi? Cioè, siete rimasti in contatto? Vi frequentavate? Vi frequentate ancora con qualcuno? Oppure le cose sono un po' andate a sparire? Ma come sempre succede, inizialmente un po' di più, adesso un po' meno, perché ognuno ha la sua famiglia. Però con Lucchesini, soprattutto visto che abita anche lui a Montevarchi, e con lo Zavagli mi sento e mi vedo costantemente. È un po' come quando si finisce le scuole, i primi anni si fa la cena di classe, siamo tutti, e poi piano piano non si fanno più le cene di classe. Però insomma, questo è molto importante dal nostro punto di vista per continuare appunto la nostra ricerca della montevarchinità. Noi la cerchiamo partendo dallo stadio, partendo dal Brilliperi. E che emozione ha provato o cosa si ricorda della sua prima volta al Brilliperi? Prima partita in casa col Montevarchi non giocai bene, ma malissimo. che mi meravigliai anch'io perché certe cose non mi riuscivano. Non so il perché, questo non me lo sono saputo mai spiegare. Però mi hanno accettato ugualmente, mi hanno scusato e con l'aiuto dei compagni e di Balleri soprattutto, che credeva ciecamente in me, dalla settimana dopo è stato tutto normale. Bene, ti ringrazio tantissimo Mauro per essere stato con noi. Stiamo andando lentamente verso la fine di questa puntata, ma non senza farti l'altra domanda di rito che facciamo a tutti gli ex calciatori o ex allenatori. Avevi una superstizione particolare prima di scendere in campo? Ci hanno raccontato di calzini alla rovescia, di accappatoi scambiati, docce prima della partita e quant'altro. Ma tu ne avevi una oppure no? No, non ne avevo. È un dato di fatto anche questo, non è detto che tutti ce l'abbiano. Bene, io Mauro ti ringrazio tantissimo per aver partecipato alla nostra ricerca della Montevarchinità e per essere stato nostro ospite questa sera negli studi di Radio Big World. Io ringrazio il nostro regista Luchino Visconti e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Grazie a tutti. Grazie a voi. Una domanda fuori onda. Quella foto, quel campionato è quello che finì con lo spareggio a Firenze? No. No, non fu quello? Il campionato di quarta serie senza lo spareggio. Ah, l'anno dopo e Scarpa fece il gol. Sì, sì. Oh, ok, allora nulla. E un'altra domanda che mi viene in mente di farle è questa, anzi di farti, perché prima si è detto si dava di tu. E lei che è stato, e non è lei, e te che tu sei stato, e te che sei stato tu e lei, non ne hai indovinato una, passavi dai tuoi. Ho fatto un po' di arzigogoli, però poi mi sono anche un po' corretta.